Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultima settimana di Agosto, tecniche di sopravvivenza. Agosto è finito ormai e con lui anche il programma. Ci siamo solo permessi di prendere qualche giorno da settembre. Non ce ne vorrà il mese che conta solo 30 dì e gli ascoltatori che attendono l'inizio del nuovo palinsesto. Ci siamo fatti un po' prendere la mano dalla prepotenza di agosto. Ma veniamo al tema di oggi. Venerdì siamo stati con voi in coda per il rientro. Oggi, che siete tornati tutti ormai, l'ho visto stamattina dalla folla in metro, parliamo dello stress da rientro, dello stress post-vacanza. Il post-vacation blues, come lo chiamano gli americani, per chi si deve rimettere al lavoro, per chi torna dopo settimane a casa e si deve ributtare nella quotidianità, per chi deve affrontare anche delle brutte sorprese, e tra queste le lavatrici da fare, poi da stirare, il frigorifero vuoto, l'abbronzatura che scema e non è un giudizio di valore sull'abbronzatura, i compiti della scuola, che bel quadretto. Perché se il problema vi sembrava la coda del rientro, oggi avete capito che il problema, in realtà, è ricominciare la vita di tutti i giorni. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Fino qui tutto bene, questo è quello che vi sarete detti fino a stamattina, fino a poco prima di atterrare in ufficio e poi è iniziata la tachicardia. Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per il malumore da rientro? 800 24 00 24 per raccontarcele in diretta e 349 238 6666 per i vostri sms. Venendo qui ho visto certi, in metropolitana stamattina, ho visto certi polpacci nervosi ma abbronzati, che per noi che non siamo nemmeno partiti e abbiamo polpacci nervosi ma pallidi, sembra strano pensare che possiate già essere stressati. E poi tutta questa rabbia, fra l'altro, in qualche modo andrà pur sfogata. E voi come vi comportate? Senza prendere spunto dalla notizia di qualche giorno fa di una ragazza, tale Danielle Isamit, una ragazza venezuelana, che dava 20 euro a chi si faceva picchiare da lei per un minuto. Io vi lascio comunque la sua email, che magari potete trarre qualche spunto. Era tipago.tipicchio@gmail.com. Ma senza arrivare a tanto, quali sono le vostre astuzie? Cosa avete inventato per non farvi schiacciare dal nervosismo? 800 24 00 24 e magari vi sfogate con noi in diretta. Boni, basta che stiamo per vedere, un po' vedere, venuto tu io. In Cina sono arrivate le gabbie per la rabbia, una catena di ripostigli del malumore, aperti e pensati solo per le donne, in cui entri e spacchi tutto quello che trovi, cioè ti puoi portare anche da casa alcuni elettrodomestici e ti puoi sfogare in piena libertà. Fra l'altro ti danno proprio la mazza, tu entri, vai lì e fai veramente tabula rasa di tutto quello che incontri e non devi nemmeno ripulire la scena del delitto, perché poi quello anche ti stressa più di prima. Sono dei luoghi che si trovano nei centri commerciali, i cinesi sono vantissimo in questo e niente, si va lì e ci si sfoga un pochino, chissà se arriveranno anche in Italia. Comunque arrabbiarsi fa bene alla salute, scaricare lo stress con una bella sfuriata può essere un toccasana ed è il dottor Neus Herrero dell'Università di Valencia in Spagna a dircelo. Ha condotto una ricerca che è stata pubblicata sulla rivista specialistica Hormones and Behavior e dalla quale è emerso che quando si è sottoposti a stimoli che generano la rabbia si attiva la parte sinistra del cervello, quella la stessa coinvolta quando si provano le emozioni positive. Herrero però avverte attenzione all'aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, che sono le controindicazioni della piazzata. Perciò va bene arrabbiarsi, ma attenti. Per rimanere in tema di sfoghi, che fanno stare meglio, una ricerca britannica della Keeley University rivela che l'urlo allevia il dolore, meglio ancora se accompagnato da parolacce e imprecazioni. Hanno fatto un esperimento su 64 volontari e hanno constatato che gli urlatori sopportavano molto meglio dei non urlatori la sofferenza fisica. Sì, hanno inferto ai volontari una piccola tortura. Gli è stato chiesto di immergere una mano in un secchio di acqua ghiacciata e mentre ad una parte è stato chiesto di reagire con delle parole accettabili senza dare troppo in escandescenza, all'altra è stato detto invece di essere, cioè di liberarsi proprio, di dire tutto quello che gli veniva in mente, sia nei toni che nella scelta dei vocaboli, anzi sono stati addirittura incoraggiati alle parolacce e i ricercatori molto british non si sono scomposti minimamente per gli improperi che sono usciti dalle bocche dei volontari ed hanno notato che il primo gruppo che è stato costretto ad un un comportamento più controllato resisteva meno al ghiaccio, mentre il gruppo più libero dimostrava una maggiore sopportazione e resisteva di più. Tu pensa. Boni, basta che stiamo per vedere, non puoi vedere, non c'è tu io. 800 24 00 24 per urlare con noi il vostro stress e 349 238 6666 per sfogarvi a suon di SMS, perché come lo gestite questo rientro alla quotidianità? Che faccia hanno i vostri colleghi? Magari se voi non siete stressati sicuramente in ufficio avete qualcuno che ha proprio la faccia da oh mio Dio perché sono tornato, e lo chiediamo anche a chi con il lavoro ha un rapporto strano, perché siamo soliti vederlo soprattutto davanti alla macchinetta del caffè. È Luca Bizzarri, il Luca Nervi di Camera Caffè, nonché Iena. Ciao Luca. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Allora, quali sono le tue tecniche di sopravvivenza per sopportare lo stress da rientro? Ma io devo più sopravvivere quando sono in vacanza che quando torno a lavorare. Io, mi piace riprendere i ritmi di lavoro, mi piace il lavoro che faccio, per cui non ho particolari stress. Ecco. Certo. Ma visto che sei spesso così davanti alla macchina del caffè in Camera Caffè, parliamo di quel Luca, esatto. È Luca Nervi. Ecco, Luca Nervi come la vive? Come la vive? Vabbè, lui non essendo neanche lui un gran lavoratore, non è particolarmente stressato, anche perché fuori dall'ufficio non ha nulla. Quindi, poco stress, quindi. Sì, probabilmente lui durante le vacanze sta chiuso in casa con le tapparelle abbassate, facendo finta di essere in qualche posto esotico, e quindi non neanche lui sarà particolarmente stressato dal rientro al lavoro, anzi tornerà di fronte alla macchina del caffè che gli sarà anche mancata moltissimo durante le ferie. È giusto, anche perché il suo lavoro è quello in realtà, bere dei gran caffè. Poi rappresenta quella forma di sindacalismo un po' così poltrone e quindi non è molto stressato. Certo, ma ti rivedremo a settembre a proposito di rientro con le Iene? Sì, il 15 di settembre ricominceranno in diretta le nuove Iene, e poi credo che quest'anno gireremo ancora dei nuovi episodi anche di Camera Caffè, che non so se saranno in onda già quest'anno o l'anno prossimo, per ora sono in onda delle repliche, però stanno andando molto bene, per cui credo che ci converrà fare delle altre puntate, insomma. Certo, grazie mille Luca, e allora buon fine vacanza e buon inizio, visto che ti piace ritornare al lavoro, buon inizio lavoro. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ricordo che ero ancora ragazzino, ma come un uomo lavoravo già. La mia canzone era questa qua. Certo, la terra costa fatica, sempre di più e sempre di più. Certo, la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna. È gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno, vino sicuro, e verde oliva se viene l'inverno. A primavera si veste da sé. Vado a lavorare, ma stasera che si fa? Una donna chi ce l'ha? Lasciate accogliere a me. Venne l'estate e colsi la rosa, viva lo sposo, viva la sposa. Più si fa notte e più mi innamoro, ma quando è giorno è doppio lavoro. E lavora col sole, lavora col vento, si parte all'alba e si torna al tramonto. Ma con la luna e il cielo sereno, mi stendo sul cielo, amore con te. Vado a se fossi nato re, farei festa insieme a te. Agosto, tecniche di sopravvivenza, si parla di stress da rientro, di malumore e insofferenza per il lavoro che ricomincia. Come lo gestite? 800 24 00 24 per raccontarci in diretta le vostre tecniche di sopravvivenza e 349 238 6666 per i vostri sms. Ogni anno è la stessa cosa? Avete già litigato col capufficio, insultato qualcuno per un parcheggio, maledetto il giorno in cui siete rientrati? Il classico del rientro è litigare col vicino di casa, quello che magari abita al piano di sopra e c'è la lavatrice che fa molto rumore e quando centrifuga vi fa tremare i vetri sotto. Ecco, lui da quando è tornato non fa che lavare panni e non fa che farvi tremare i vetri, sempre di notte, chissà come mai. E come vi state comportando in questo momento? Poco fa abbiamo sentito Luca Bizzarri che ci raccontava che non vive lo stress da rientro perché ama il suo lavoro e semmai ha lo stress per la vacanza, e nemmeno come Luca Nervi lo subisce perché lavora molto poco. Cara signorina, stamattina alle 0800 siamo stati avvertiti che qualche topo d'appartamento si era infilato in questo ufficio. Trattandosi questo di un ufficio e non di un appartamento, abbiamo dedotto che non si trattava di topi d'appartamento, bensì di volgarissimi topi da ufficio. Ecco, topi da ufficio. E quelli che invece hanno dovuto fare i conti con i topi d'appartamento e come sorpresa al ritorno si sono trovati la casa svaligiata, vi è mai successo? Anche nella casa di Paris Hilton a Los Angeles si sono intrufolati quest'estate, o almeno ci hanno provato, ma non ce l'hanno fatta. Per fortuna gli impianti di sicurezza che Paris Hilton aveva potenziato dopo i furti precedenti hanno funzionato bene. Lei chiaramente non si è fatta sfuggire l'occasione per usare tutto questo in maniera mediatica, ha fotografato le fasi dell'arresto e poi ha pubblicato tutto su Twitter. Ma attenzione ai social network, perché se una volta c'erano le telefonate mute, gli appostamenti, l'attesa delle ferie, dei ponti, dei weekend, come i trucchi che i ladri utilizzavano per individuare le case vuote da svaligiare, oggi i ladri se ne possono stare tranquillamente seduti alla scrivania. Tanto ad informarli ci pensano direttamente le potenziali vittime. Infatti un gruppo di sviluppatori olandesi ha messo in rete un sito che ci dà un'idea concretissima di quali sono i rischi che si corrono pubblicando troppe notizie personali in giro per internet. Si chiama pleaserobme.com, prego derubami, e non fa altro che prendere informazioni liberamente accessibili a chiunque su Twitter e sui vari social network, le rielabora fino a generare in tempo reale una lista di persone che si sono allontanate da casa lasciando via libera ai potenziali intrusi. Quindi attenzione a quello che scrivete, perché poi è inutile ingegnarsi a lasciare le luci accese quando andiamo in vacanza se poi comunichiamo a tutti su internet che siamo partiti. Ogni giorno la vita è una grande corrida, ma la notte no. Ogni giorno una lotta, chi sta sopra chi sotto, ma la notte no. Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifricio, ma la notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio, ma la notte no. Ma comincia il lavoro e parli sempre soltanto delle cose importanti, ma la notte no. E ti perdi la stima se non trovi la rima, ma la notte no. Ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso, ma la notte no. Malla notte, malla notte, malla notte. mi scasso, ma la notte no. E per questa rottura non si trova la cura, ma la notte no. Il morale si approscia, la pressione si ammuscia, ma la notte no. Dieci e 24. Oggi ad agosto, tecniche di sopravvivenza, si parla di stress da rientro. Visto che ormai siamo tutti tornati al lavoro o ci stiamo per tornare, beh, gente come me che non è nemmeno mai partita, quindi come lo gestite lo stress da rientro? Alla fine di una vacanza c'è sempre un po' di nervosismo da dover gestire, per varie motivazioni, il lavoro, la casa, la famiglia. 800 24 00 24 per raccontarci le vostre tecniche di sopravvivenza e 349 238 6666 per gli sms che ne stanno arrivando tantissimi. Come gestite lo stress da rientro? Lo chiediamo anche al dottor Walter Pasini, presidente della Società Italiana di Medicina del Turismo. Buongiorno, dottor Pasini. Buongiorno. Buongiorno. Che cos'è questa sindrome da rientro? È un insieme di sintomi legati allo stress e talvolta alla depressione che compaiono quando si ritorna da un viaggio. E più è lungo questo viaggio e più ha avuto un contatto, un impatto con culture diverse, e più questa sindrome si manifesta in modo conclamato. Certo, e c'è un modo per capire se si soffre di questa sindrome? Ci sono dei sintomi particolari? No, noi abbiamo fatto uno studio alcuni anni fa, anche più di uno, e abbiamo visto che questi diciamo complessi di sintomi si manifestano talvolta nelle persone che hanno compiti intellettuali impegnativi, e quindi la lontananza dal quotidiano fa sì che sia difficile recuperare quella performance sia fisica che mentale che si aveva in precedenza. Certo, e a lei è mai capitato di soffrire di questa sindrome? Sì, a me capitò già nel 1976 o 78, ritornando da un viaggio a Cuba, e allora non c'erano i cellulari, quindi la lontananza, anche questo contatto stretto con un regime politico sociale così differente, fece sì che mi ci vollero vari mesi per recuperare. Ah, addirittura mesi? Ci vogliono dei mesi quindi per recuperare? Sì, mesi per recuperare, naturalmente non sempre con la situazione così drammatica. Lo è questa situazione così drammatica naturalmente negli immigrati che ritornano dopo molti anni in patria e quindi non ritrovano più la situazione precedente, anche i loro cari non li riconoscono più, un po' come accade nel romanzo dove si parla del tenente Drogo, il deserto dei Tartari, e quando il tenente ritorna, la madre, che non lo vedeva da diverso tempo, va a messa, o la fidanzata non è più quella di prima, e quindi lui decide di ritornare nella fortezza per sempre. È difficile quindi ritornare nel punto da cui si è partito, questo è un concetto abbastanza chiaro, ma non sempre naturalmente la situazione è così, per lo più le vacanze attuali sono di alcune settimane, esistono i cellulari, quindi internet, è possibile collegarsi con la situazione precedente in modo molto più facile oggi. Certo, ma come tecnica di sopravvivenza che cosa consiglierebbe ai nostri ascoltatori? Tecnica di sopravvivenza, quello di di considerare fisiologica questa situazione di disagio che si può manifestare con disturbi del sonno, un po' di depressione, quindi un po' di malinconia, oppure sintomi da stress, taticardia, sudorazione, e quindi considerare fisiologica e riadattarsi gradualmente alla dimensione del quotidiano senza porsi nei primi giorni di lavoro ritmi precedenti, quindi prenderselo un po' con calma e avere quindi sempre ottimismo nei confronti del futuro. Grazie mille, dottor Pasini. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla di stress da rientro, ad agosto tecniche di sopravvivenza, di malumore per la fine delle vacanze, di cambio di una quotidianità che aveva dei ritmi diversi da quello cui siamo abituati a casa. 349-238-6666 per i vostri messaggi e 800-24-0024 per raccontarci in diretta se siete stressati, se lo siete stati in passato e come cercate di compensare il rientro al lavoro. Sentiamo Giulio da Pistoia. Ciao Giulio. Buongiorno signora. Buongiorno, buongiorno e buon lavoro a lei, ecco. Se è rientrato. Io ancora non sono partito, come dicevo prima alla regia, perciò sono sempre su strada, dato che sono un conducente di veicoli pesanti, quindi lo stress mi fa compagnia. Lo stress anche degli altri, quindi, quello dei guidatori che vanno al lavoro, ovviamente. Sì, cittadina, autostradale, code, incidenti, maltempo, di tutto, c'è di tutto, si può fare un libro su quel che c'è. E io riuscisco in maniera totalmente opposta, cioè mantenendo la calma. Mantenendo la calma, ah, la sua tecnica di sopravvivenza è non arrabbiarsi. È per forza. E d'altra parte, trovo un ingorgo a coda per i vacantieri, come è capitato anche nel fine settimana, cosa posso fare? Eh no, è vero. Se fa radio, sempre lì rimango. E allora a quel punto faccio di necessità di più. Giustamente. E lei quando andrà in vacanza, Giulio? Ma io intanto per qualche giorno mi riposo dentro casa, mi rilasso proprio, anche perché ho ancora un po' di andare in vacanza, ho ancora da arrivare al 13 di settembre, quindi a voglia stress su strada. Poi probabilmente me ne vado qualche giorno, deciderò con la mia sinistra cosa fare. Bene, relax. Grazie mille, allora. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno, arrivederci Giulio. Oggi si parla della sindrome da stress e come ci raccontava Giulio da Pistoia che fa l'autotrasportatore, la sua tecnica di sopravvivenza è mantenere la calma. Voi come fate? 800 24 0024 per raccontarcelo in diretta o 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ma ce l'ha confermato anche il dottor Pasini che esiste questa sindrome da stress, quindi non c'è da stupirsi se siamo svogliati, stanchi più del solito e fatichiamo a concentrarci. E poi o si fa come l'ascoltatore di prima e si mantiene la calma, oppure abbiamo anche visto che la piazzata può essere curativa. Boni, basta che stiamo a perdere, non puoi vedere uno tuo. Arrivano un sacco di messaggi al 349-238-6666 sulle vostre tecniche di sopravvivenza. Un ascoltatore non si firma e dice: io ho ricominciato a fumare. Mi dispiace, forse non è una buona tecnica di sopravvivenza. Scrivono: buongiorno carissima, il mio rientro è stato traumatico perché sono allergico alla maledetta ambrosia. Sono nervoso giorno e notte e lo sarò fino a metà settembre. Saluti Davide. Oppure ce ne sono tanti altri, gente stressata, gente che non capisce come si può essere già stressati visto che non sono andati in vacanza. Ce ne sono di tutti i tipi. 800 24 0024 per prenotarvi e parlare con noi e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ma quanto stress si è accumulato nel passato? Vediamo cosa ci dice la nostra scheda storica. 30 agosto 1963. Ma quale stress? Riecheggia ancora nelle menti di tutti il discorso di Martin Luther King, tenuto solo due giorni prima davanti al Lincoln Memorial di Washington. I have a dream. 30 agosto 1963. Entra in funzione il telefono rosso tra i capi di Stati Uniti e Unione Sovietica. Nessuno stress quando ci fu il rientro del pericolo Guerra Fredda. 30 agosto 1897. Mancano due giorni all'apertura della metropolitana di Boston, la prima del Nord America. Gli americani ancora non sanno quanto stress accumuleranno prima di andare in ufficio, proprio là, sottoterra. 800 24 00 24 per parlare con noi in diretta e 349-238-6666 per i vostri messaggi. Oggi a Tecniche di Sopravvivenza si parla di stress, di fatica a riprendere la routine lavorativa, di stanchezza anche se sono appena finite le vacanze. Ma è tutto normale, lo dicono anche i dottori. Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza? E se ci pensate bene, non va poi così male, no? Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Sì, potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. I vostri messaggi al 349-238-6666. Massimiliano Pesce mi dice: ho cambiato vita per non dover sopportare lo stress da rientro. Oppure questo non ne so, Romano comunque dice: salve, il rientro per me è stato un sollievo, perché io, Romano, ho portato 4 bergamasche in giro per la capitale, tra chiese e negozi, avrò fatto 15 km a piedi al giorno e le cene ingozzanti, mamma mia, però tra 2 o 3 giorni mi prenderà la Saudagi di Roma, ne sono certo. Un saluto d'Arpuccio e Romano trapiantato al nord. Quindi potrebbe andare peggio o può andare bene. Ma vediamo che cosa ne pensa dello stress da rientro anche Simone Annicchiarico, conduttore della Valigia dei Sogni sulla 7. Buongiorno, salve a tutti. Ciao, senti, tu hai delle tecniche di sopravvivenza per resistere allo stress da rientro? Sì, io ne ho una che è quasi infallibile. Io praticamente amando particolarmente le vacanze, come chiunque, tento di rientrare il più tardi possibile. Cioè adesso per esempio sto in Sardegna, io tento di rientrare, non lo so, fine settembre, quando ormai il posto diventa triste, la gente è partita e quindi sei costretto a tornare nella civiltà, sei costretto a tornare ai tuoi affetti, alle tue cose, e ci torni anche ben volentieri. Quindi il dramma è andare via, il dramma è partire il 18 agosto, il 19, tornare col caldo, il caos, invece torno, dico, fine settembre, primi di ottobre, risolto. Quando sei stufo, veramente stufo nero. Esatto, non hai mai nostalgia. Senti, ma è importante portarsi in valigia qualche sogno, visto che tu conduci la valigia dei sogni quando torni dalle vacanze? Sì, ma l'importante è che comunque, beh, come la vedo io, ma capisco che io purtroppo appartengo a una cosa utopistica, io non... Secondo il mio modo di vedere, le vacanze sono veramente troppo corte per le persone, non si può lavorare 11 mesi e mezzo all'anno e avere mezzo mese di vacanza, una cosa abbastanza strana. Certo, certo. Però è così e quindi la gente purtroppo si deve accontentare. Il sogno è quello di tornare in città e star bene come se stato in vacanza, ma anche quella è un'utopia. Utopia, pura utopia. Bisognerebbe trovare, ecco, veramente una cosa bilanciata, avere più tempo per se stesso, per stare rilassarsi, per per certo. lavarsi indosso le nevrosi della città, che sono tante. Certo, tu hai qualche ricordo di vacanze tue da bambino? Perché qualche giorno fa abbiamo parlato di tuo padre, quando abbiamo trattato l'argomento di palinsesti vuoti in estate, perché adesso ci sono tutti questi sketch, vecchi sketch televisivi, e quando sono in onda quelli di Walter Chiari c'è il picco di ascolti. Tu hai qualche ricordo, sì, qualche ricordo di vacanza da bambino, qualcosa che... Le vacanze, siccome lo Stato italiano, come tanti altri stati, inspiegabilmente, quando due genitori si separano, affida quasi sempre il figlio alla madre, io passavo con mio padre proprio le vacanze, quindi il periodo in cui stavo più tempo con mio padre era proprio giugno, luglio, agosto, settembre, quando andai a scuola, e facevo delle vacanze con lui formidabili, mi portava in posti, era una roulette, non sapevi mai dove finire. Un giorno potevi finire in Australia, il giorno faccio senatico, cioè, non si sapeva, non esistevano progetti, non esisteva un... Che belle vacanze, che invidia. Partivi, lui veniva a prenderti e poi boom, un giorno stavi lì, 5 giorni dopo, perché lo chiamavano, finivamo, che ne so, a Fano, poi da Fano andavamo in Costa Azzurra, poi da lì prendiamo un aereo, andavamo in Australia. Abbiamo fatto dei viaggi bellini, ricordo che abbiamo fatto un giro del mondo una volta, siamo partiti, era io, mio padre, c'era Tony Harris con noi. E non dovevamo andare solamente in Australia e tornare, perché mio padre aveva una casa in Australia, ha fatto un film con Michael Powell che in Australia era diventato uno dei film più importanti della cinematografia australiana, quindi gli avevano regalato una casa, lui adorava l'Australia, dovevamo andare e tornare, invece poi da lì siamo andati alle Fiji, poi alle Fiji, ma perché non andiamo a Hawaii, abbiamo fatto una Hawaii, poi siamo andati in Florida, abbiamo fatto il giro del mondo. Beh, che meraviglia, che meraviglia. Beh, lì lo stress da rientro l'avrei avuto però, in realtà, perché dopo un viaggio così... Non l'ho avuto, perché mia madre, mentre stavo rientrando, si è trasferita negli Stati Uniti a vivere con il suo compagno di allora, ti parlo dei metà anni 70, e io sono rimasto, invece di tornare in Italia, quindi sono rimasto, eravamo a Miami, mi hanno portato su a Washington, sono rimasto un anno lì. Beh, Simone, sei troppo fortunato allora per noi. Sì, le tue tecniche di sopravvivenza. Grazie mille. Stasera che cosa ci sarà nella valigia dei sogni? Che cosa c'è stasera sulla 7? Stasera, se non sbaglio, c'è Mignone e Partito, se non sbaglio. Bene, quindi perfetto sullo stress da rientro. Certo. Grazie, ciao Simone. Figurati, un abbraccio a tutti quanti, ciao. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Uno di Giuliana che dice: ma mio marito si sfoga con me quando ritorno dal lavoro, non è bello. Oppure Attilio: al ritorno delle vacanze, per vincere la malinconia che mi ha assalito, mi sono buttato su internet ad organizzare idealmente le prossime vacanze in località esotiche. Devo dire che mi ha aiutato. Ciao Attilio. Ma adesso ci fermiamo un attimo per la viabilità, come mi fanno sentire. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:46, oggi si parla di stress da rientro. Siete di quelli che se la prendono perché sono finite le vacanze? E semmai, con chi ve la prendete? Con chi vi sfogate? Fatelo con noi al 349-238-6666 con i vostri messaggi, oppure in diretta all'800 24 00 24. Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza allo stress da rientro? Ci sono dei messaggi molto, molto divertenti, alcuni sono veramente di gente che si sfoga, altri invece, per esempio Beta dice: lo stress lo vedo negli altri. Io lavoro mentre tutti partono e quando tutti tornano parto io, non subito, verso novembre, per viaggi di un paio di mesi, sfruttando la mia situazione di precaria, e quando torno, per non patire la nostalgia, già penso al prossimo. Molti consigliano anche di mantenere un regime alimentare sano per smaltire le tossine accumulate durante le vacanze, perciò niente fritti, poco caffè per tenere sotto controllo anche i nervi, molta frutta e verdura come sempre, e bere tanta acqua. Oggi abbiamo come ospite qualcuno che può rispondere a queste indicazioni, aggiungendo la comodità anche di farvi arrivare tutto questo a casa, perché si sa, quando si torna dalle vacanze il frigorifero piange. E ne parliamo con Stefano Capelli, uno dei fondatori di Lattughino.com, la prima realtà italiana di fresh food delivery. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Allora, che cosa succede per Lattughino.com quando finiscono le vacanze? Siete assaliti da gente che vi telefona? Abbastanza, diciamo che la settimana scorsa, quando abbiamo ricominciato, abbiamo ricevuto diverse chiamate. Diciamo che il post vacation blues, come hai detto tu, lo cominceremo a sentirlo oggi. Oggi? Eh beh, già, perché tutti oggi rientrano. Ma esatto. Raccontaci un po' meglio che cos'è Lattughino.com, anche se nel nome più o meno qualcosa si intuisce. Guarda, Lattughino è un servizio di food delivery, ovvero tu ordini e noi te lo portiamo a casa nel giro di 45 minuti, un'ora. E soprattutto portiamo insalate molto varie, molto particolari. e poi abbiamo sandwich, zuppe, centrifugati, frutte varie, insomma, tutte cose molto sane, molto buone, però con attenzione alla qualità, attenzione alla quantità anche. Certo. E quindi, insomma, qualcosa che ti dia anche un sorriso mentre fai la pausa pranzo con i colleghi, che spesso è piuttosto noioso. Giustamente. Chiusi nei bar. Certo, ma ho visto anche che voi utilizzate dei box speciali, quindi non state attento solo al contenuto, ma anche al contenitore. Avete queste scatole realizzate con materiali biodegradabili. Sì, esattamente. Abbiamo sia le scatole sono biodegradabili e soprattutto anche le nostre posate sono fatte con materiali speciali derivanti dalla patata, insomma, sono tutte cose un po' particolari per stare un po' attenti anche all'ambiente. Certo, e ci si deve iscrivere per lattughino.com o si può sì, semplicemente... Sì? O ci si iscrive al telefono quando si fa il primo ordine, oppure online ci si crea una username, una password e poi si entra e si ordina online quello che si vuole. Abbiamo anche spesso una lavagna settimanale con piatti nuovi ogni settimana e ognuno può scegliere quello che vuole. Allora, visto che noi stiamo parlando dello stress da rientro, e so che voi organizzate anche degli eventi per aiutare quelli che ci stanno ascoltando anche a non subire tutto questo nervosismo per il rientro, di che eventi si tratta? Ma noi ogni lunedì ci troviamo e andiamo a correre, alle 19, alle 7 ci troviamo presso il nostro negozio che è in via Ludovico il Maro 3, e saltiamo il ponte, andiamo dall'altra parte del Naviglio e facciamo un'ora di corsa. Ed è una cosa molto simpatica perché arriva sempre gente nuova, ci si può conoscere, si fa sport insieme, è una sorta di aperitivo, insomma, di corsa. Ah, quindi possiamo invitare tutti gli ascoltatori di Milano o comunque vicino a Milano, se stasera vogliono venire, giusto? Esatto, dove si devono presentare? In via Ludovico il Maro 3, da Lattughino, e all'angolo con la via Andrea Ponti, e poi si parte e si va tutti insieme. Perfetto, speriamo che questo aiuti allora tutti quelli che sono rientrati dal lavoro. Grazie mille Stefano. Grazie a voi. Ciao. Stress. Yeah. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi si parla dello stress da rientro. Arrivano i vostri messaggi al 349-238-6666. Giulia mi dice: Morena, la mia tecnica di sopravvivenza è mettere la sveglia mezz'ora dopo l'orario previsto. Il primo giorno, dopo le vacanze, un po' di ritardo ci sta. Oppure Paolo, tecnica di sopravvivenza collaudata. Calzoncini corti, infradito e t-shirt, anche in riunione con l'amministratore delegato. Oppure un altro, Laura da Pescara, per me la tecnica di sopravvivenza migliore è farmi una puntatina in spiaggia almeno nel weekend. Funziona. E adesso abbiamo con noi al telefono Attilio da Torino. Ciao Attilio. Ciao. Ciao. Allora, la tua tecnica di sopravvivenza per lo stress? È quella che ho spiegato prima sull'SMS. Dell'SMS, sì. Esatto, sì. Mi ricreo un po' quell'atmosfera che purtroppo ho dovuto abbandonare con rientro a casa. E quindi questo consiste nel andare a cercare su internet posti dove sono già stato, posti dove vorrei essere, per ricrearmi un po' così mentalmente un'atmosfera vacanziera. Con l'immaginazione si può viaggiare. Anche un po' visivamente, perché guardando luoghi così su internet, luoghi dove magari non potrò mai andare o dove potrei anche andare o dove non sono mai stato, mi aiuta comunque, perché almeno io personalmente provo sempre questo senso di malinconia al rientro. Al rientro delle vacanze, ti capisco. Quindi cerco di entrare gradualmente nell'autunno attraverso questo sistema. E il prossimo viaggio? Scusa, pronto? Sì, sono qua. Il prossimo viaggio? Prossimo viaggio fino all'estate prossima, vedremo. L'idea sarebbe di andare alle Mauritius, bisogna un po' vedere se mia moglie è d'accordo. Poi volevo solo aggiungere una cosa, certo, personale, nel senso che quando finirà questa trasmissione si accentuerà ulteriormente questo senso di malinconia, perché devo dire che sono diventato un ascoltatore molto fedele di questa trasmissione. Molto. Grazie Attilio. Con la giusta leggerezza, con la giusta ironia, e mi mancherai, devo dire, spero che l'anno prossimo si riproponga. Speriamo, grazie Attilio, grazie mille. Grazie. Ciao. Beh, adesso basta con tutto sto stress e anche tutti questi complimenti che ci fanno piacere chiaramente. Ecco le nostre tecniche di sopravvivenza. Uno, ogni mattina guardandoti allo specchio sorridi al viso familiare abbronzato che ti guarda stranito. Non potrà che risponderti con lo stesso sorriso. 2. Sorridi ai musi lunghi che incontri in ascensore, in metropolitana, al bar, all'edicola. Mostrare i denti sotto qualunque forma serve a smaltire l'aggressività. 3. Dedica almeno 5 minuti al giorno al cazzeggio. 4. Dedica almeno 3 ore al giorno alla ricerca online di un viaggio per il prossimo weekend. Un'ora per farti fare un massaggio e 2 per raccontare delle vacanze ai colleghi. 5. Niente male se per un paio d'ore ti tocca lavorare. È provato che lo stress scatta al 121esimo minuto. Avete preso appunti? Beh, adesso basta con tutto questo stress, perché solo a sentirne parlare poi ci viene davvero, anche se non ce l'abbiamo. I vostri SMS sono veramente molto divertenti, al 349-238-6666. Non si firma questo ascoltatore, dice: la mia tecnica di sopravvivenza è acquistare ogni volta che torno dalle vacanze un modellino radiocomandato di elicottero, essendo un appassionato. Invece io non vedo l'ora di rientrare dalle vacanze sempre, perché guardo tutto quello che potrei copiare per casa mia, fiori e piante in particolare. Luisa da Vicenza. Saluto i miei prodi compagni di avventura che sono stressati e contenti, in redazione Vittoria Mussini e Laura Faggin e Roberto Scaltritti in regia. A domani e buon lavoro. Lavoratori! Lavoratori della banda! Ma che ha sta macchina? Che c'ha? Ti fermi! Scendi, apri il cofano, vai. Ma fai qualche cosa, come non cosa fai? Vuoi che faccia? Ma come? Oh! Dai, ciao! Vengono! Urco! Stavamo scherzando! Vai, che scappa! Dai, ciao! Dai, da dove? Nel momento!